mon frère dit moi comment donc pour pouvoir quand rien quand pourquoi mais bon quand une bouta de sucre non quand on en frante là quoi io ero in Ucraina per studiare all'università. Quando è scoppiata la guerra ho pensato insieme a altri amici che bisognava scappare. Quando abbiamo avuto i soldi per uscire dall'Ucraina, abbiamo cercato di prendere l'autobus che ci portava verso il confine. Anche riuscire a prendere l'autobus non è stato facile. Quando siamo arrivati al confine con la Polonia, abbiamo visto che tanti africani erano bloccati. Abbiamo tentato di entrare in Polonia, ma siamo stati respinti qualche volta. La mia fortuna è di aver conosciuto una coppia ucraina che quando abbiamo raccontato che non ci lasciavano passare ha detto alle autorità che lavoravo per loro come domestico. Quando siamo arrivati alla frontiera, i militari presenti hanno guardato i nostri documenti e ci hanno detto che non erano validi per passare il confine, perché non erano documenti europei. Quindi, con il pretesto dei documenti, non ci lasciavano uscire dall'Ucraina, nonostante ci fosse la guerra. Io sono stato fortunato perché quella coppia ucraina mi ha aiutato, ma non tutti sono riusciti a andarsene. Alcune persone africane che conosco non sono ancora riuscite a lasciare l'Ucraina. Ho saputo che hanno provato a contattare le ambasciate del proprio paese d'origine, ma per riuscire a andarsene dipende di che paese sei originario. Più il paese africano d'origine è forte, più c'è possibilità per i propri cittadini di lasciare l'Ucraina. Anche da parte ucraina ci sono stati fenomeni di razzismo e di discriminazione nei confronti dei neri. In particolare non ci lasciavano salire su bus. Prima potevano salire i bianchi, mentre gli africani venivano lasciati a terra. Lo stesso problema è stato vissuto anche da donne con bambini. La discriminazione non riguarda solo noi maschi neri. A dare vita a questa discriminazione erano proprio le autorità e i controllori all'interno dei mezzi pubblici. Io adesso sto bene e mi trovo in Germania, a Monaco. Sono stato accolto bene e per il momento non mi lamento. Quando sono arrivato sono stato ospitato da un amico. Ora invece mi sono rivolto a un'associazione che si sta prendendo cura di me. Se avrò la possibilità di proseguire gli studi in Germania, mi farebbe molto piacere.